Questo primo podcast avrà come argomento la micromobilità elettrica. Con micromobilità si intende l'insieme dei veicoli e delle modalità utilizzate per brevi tragitti e per il trasporto di una o due persone al massimo. Quindi, con micromobilità elettrica si parla nello specifico dei mezzi a propulsione elettrica. Ormai da molto tempo si parla di questi mezzi elettrici, in particolare di Segway, monowheel, monopattini elettrici e hoverboard. Infatti, in data 4 giugno 2019, era iniziata la sperimentazione nelle città italiane, poiché il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli, aveva firmato il decreto ministeriale che attuava la norma della legge di bilancio 2019. Il decreto ministeriale si è occupato di specificare in dettaglio le caratteristiche dei mezzi, delle aree in cui essi possono circolare e anche delle dotazioni che devono avere. Per quanto riguarda le caratteristiche, infatti, i mezzi a norma saranno quei mezzi che avranno la possibilità di regolare la velocità massima del dispositivo. Infatti, si può passare da aree con limite di 6 km/h ad aree con limite di 20 km/h. Su percorsi pedonali e ciclabili e sulle aree pedonali, i limiti imposti saranno di 6 km/h. Mentre invece su strade con limiti fissati a 30 km/h per i veicoli, il limite sarà 20 km/h, che sarà poi la velocità massima raggiungibile in generale dal mezzo. Mentre per quanto riguarda le dotazioni, i monopattini in particolare dovranno avere dei dispositivi acustici e visivi, come ad esempio clacson e luci di posizione. Il decreto però non si ferma alla semplice regolarizzazione dei mezzi dei privati cittadini, ma si estende anche a tutti quei servizi di sharing che abbiamo visto comparire a Milano nell'ultimo periodo. Fino a un mese fa, infatti, la città di Milano poteva vantare ben 3 servizi di sharing di monopattini elettrici, come Elbiz, Lime e Circ. Queste 3 compagnie di sharing sono molto simili, infatti tutte e 3 prevedono 1 euro di sblocco all'inizio del servizio e poi una tariffa al minuto da dover pagare. Infatti Elbiz prevede una tariffa di 15 centesimi, mentre invece le altre 2 compagnie di 19. Perché ho detto disponibili fino a un mese fa? Beh, perché infatti da fine agosto fino a ottobre ormai, i servizi non saranno più disponibili, infatti è stato accordato il ritiro di tutti i mezzi disponibili su piazza e della temporanea sospensione dei servizi. In questo periodo, infatti, verranno decise ulteriori norme da dover adottare, come ad esempio l'eventualità di dover indossare un giubbotto catarifrangente e di un caschetto. Ok, dopo aver parlato di tutta la legislazione che in questi mesi sta facendo molto parlare, vorrei anche dare un mio parere. Infatti ho avuto modo di provare i monopattini elettrici sia per quanto riguarda lo sharing di Elbiz, sia per quanto riguarda il monopattino prestato da un mio amico. Entrambi mi sono sembrati molto utili, infatti per brevi spostamenti sono ottimi. Permettono di raggiungere tutti gli angoli della città, ma la velocità con cui ci si può spostare è molto limitata. Infatti, anche se prevedono una velocità massima di 20 km/h, vi garantisco che saranno pochi i momenti in cui andrete al massimo, perché essendo così comunque compatti e leggeri, avendo le ruote così piccole, sono difficili da controllare e anche abbastanza pericolosi, sia per le persone che le guidano e anche per gli altri. Infatti in strada a Milano spesso si passa da asfalto a pavé oppure a sanpietrini. Credo comunque, per concludere, che siano molto importanti perché fanno parte del progresso tecnologico riguardante i mezzi di trasporto, ma credo comunque che in modo altrettanto veloce debbano essere presi dei provvedimenti per regolarli e non per limitarne eccessivamente l'utilizzo. Infatti alcuni decreti tuttora in vigore prevedono l'utilizzo di questi mezzi in aree pedonali. Aree pedonali che sì, sono presenti a Milano, ma non sono collegate tra loro e quindi non si riesce a raggiungere tutte le parti della città. Per come stanno i fatti ad oggi, però, mi sento in dovere di raccomandare la cara vecchia bicicletta, che è sempre pronta, non deve essere ricaricata ed è molto comoda per spostarsi in città. Detto questo, il primo podcast è finito e ci sentiamo al prossimo episodio.